Mr. Kilowatt, alla ricerca dell'energia perduta. Un saluto da Maurizio Melis. A volte il risparmio energetico, più che una questione di hardware, è una questione di software, cioè di capire da un lato dove sono localizzate le perdite, gli sprechi energetici, e poi dall'altro certamente c'è una fase di intervento che può essere molto diversa a secondo del tipo di intervento che si fa. Addirittura, e questo è un dato estremamente interessante, a volte si tratta solo di sincronizzare degli orologi, di mettere a posto dei termostati. Parliamo di tutto questo con Paolo Tartarini, che è docente di fisica tecnica dell'Università di Modena e di Reggio Emilia e che ha anche una delega del rettore proprio per le problematiche energetiche presso l'Università. Buonasera Tartarini. Buonasera. Parliamo di monitoraggio energetico, cioè cerchiamo di capire come un'azione di sorveglianza può produrre poi con piccoli investimenti significativi risparmi energetici. C'è stata un'esperienza a Genova molto importante. Infatti l'Università di Genova, precisamente il Dipartimento di Ingegneria Elettrica, tramite uno spin-off ha iniziato questa attività importantissima di monitoraggio sull'elettrico, sui consumi elettrici di Ateneo e ha realizzato questo software di derivazione francese, l'ha perfezionato e ha installato il sistema di monitoraggio, centraline e software su 19 edifici particolarmente energivori in campo elettrico degli 85 dell'Ateneo. Mm-hmm. In questo modo ha rilevato in tempo reale, quindi con un time step di 15 minuti, ogni 15 minuti rilevano i consumi effettivi di questi edifici e questo permette di avere una fotografia molto precisa di malfunzionamenti nel settore elettrico che portano a elevati consumi al di là di quelli che dovrebbero essere i consumi normali. Se posso fare un esempio, ci sono dei consumi assolutamente evitabili che sono quelli legati per esempio alla cattiva taratura di cronotermostati o del campo elettrico in particolare, di orologi che attivano degli impianti elettrici in orari sbagliati. Come sistemi di raffrescamento, ventilatori. Esattamente, o luci delle aule, nel caso delle aule universitarie. Per cui se certe attivazioni automatiche vengono fatte siamo in fascia alta come tariffe e invece era previsto che venissero fatte in fascia bassa, chiaramente il malfunzionamento comporta che per la stessa attività si spenda di più e ingiustificatamente. Ecco, senta, qual è stato il risultato di questa operazione di Genova? Direi impressionante, perché loro si sono ripagati il costo dell'installazione di tutto quanto, ripeto, su 19 edifici, se la sono ripagata in un anno con il risparmio ottenuto correggendo questi malfunzionamenti su un solo edificio. La cifra tra l'altro era anche abbastanza piccola. Dell'ordine di 40.000 euro. Quindi 40.000 euro spesi per verificare tutti i 19 edifici, fare le modifiche su uno e il risparmio che si è conseguito su questo primo edificio è già di 40.000 euro, più o meno la stessa cifra. Questo avviene perché esiste un software nel quale appunto viene ricostruito virtualmente l'edificio e si fa un confronto fra quello che ci si aspetta a partire da questa ricostruzione e quello che si consuma effettivamente monitorando appunto i consumi energetici. Questo per l'elettrico, ma voi state facendo un'operazione analoga sul termico. Sì, a noi interessa moltissimo fare la stessa cosa in campo elettrico anche per validare insomma il software, far vedere al rettore che ci sono effettivamente dei guadagni, dei risparmi notevoli. Però in campo termico la cosa è più complicata, perché in campo termico noi dobbiamo fare interventi strutturali se vogliamo migliorare l'efficienza energetica, certo, dell'edificio. Per esempio sostituzione di infissi, vetri o addirittura interventi sui cappotti che si possono applicare agli edifici. Quelle sono cose che necessitano di un calcolo esatto del tempo di ritorno dell'investimento, perché nessuno in una struttura pubblica grande come un Ateneo deciderà di spendere centinaia di migliaia di euro senza sapere, con una sufficiente garanzia sulla sicurezza di questo investimento, che gli tornerà in tasca, se mi consente, l'investimento in pochissimo tempo. Ecco, d'accordo, perché queste sono le attese. Quindi se da una parte abbiamo avuto 40.000 euro di spesa e 40.000 euro di rientri, dall'altra si attendono spese più consistenti, ma anche rientri molto più consistenti e dimostrabili. E questa è la cosa importante. Il software può fare questa simulazione, ecco. Se ho capito bene, uno dei vantaggi principali della possibilità di utilizzare questo software consiste nella capacità di simulazione dinamica dell'edificio. Ci spiega? Dunque, la simulazione simulazione dinamica vuol dire tenere conto dell'inerzia termica dell'edificio, delle pareti. Noi sappiamo che una parete trattiene e rilascia il calore in tempi ben diversi. Quando si fa un calcolo di progetto, si calcola tutto come se lo scambio di calore fosse istantaneo, come si suol dire in regime stazionario. La stazionarietà in realtà è una grossolana approssimazione. Se io riesco a gestire un impianto tenendo conto dell'inerzia termica dell'edificio, io posso ottimizzare il funzionamento dell'impianto ottenendo dei grossi benefici. Mr. Kilowatt si chiude qui, vi lascio con una domanda. Comprereste un'auto la cui velocità si regola schiacciando sul freno mentre l'acceleratore è costantemente a paletta? Vediamo dove ci porterà domani questo interrogativo. Vi dico soltanto che faremo un blitz nel territorio dell'industria occupandoci di motori elettrici. Buona serata!